giorni scorsi sulla Gazzetta di Mantova sono stati pubblicati alcuni annunci economici dove l'oggetto della richiesta era particolarmente degno dei tempi che viviamo, a proposito di quanto diceva l'Oliva poc'anzi. La Lega Nord, che pagava questa inserzione, e infatti cercava candidati per le prossime elezioni amministrative, e qualcuno dei suoi dirigenti, fiducioso nella convenienza della seconda mano, ha ritenuto opportuno cercarli tramite un'inserzione sul giornale. Apprendo da Link, una rivista che dice di promuovere idee per l'innovazione, che a Hollywood stanno per fare un ennesimo remake, ovvero il rifacimento di un film già fatto. Questa volta la disgrazia tocca a Il caso Thomas Crown, un film che Norman Jewison diresse nel 68 avvalendosi dell'interpretazione del povero Steve McQueen e di Faye Dunaway. Questa volta la regia è affidata a John McTiernan, che in una carriera che ormai supera la dozzina di anni è diventato uno specialista in quei film che, ecco, non stando in piedi alla luce del pensiero, vengono perdonati classificandoli come film d'azione, come se il ritmo dell'evento gli conferisse di per sé verosimiglianza e plausibilità. Più interessante della notizia del remake è però la notizia di una particolare modalità produttiva adottata per la sua realizzazione. La casa produttrice, infatti, ha trovato il modo di incassare quattrini prima che il film sia realizzato e prima che proiettato nelle sale cinematografiche venga messo a disposizione di eventuali clienti. L'idea è quella di vendere all'asta a chiunque possa e voglia partire da una base minima di $10,000, vendere all'asta alcuni ruoli secondari. Si è scoperto, insomma, che lo spettatore, prima di essere spettatore di qualcun altro, aspira ad essere spettatore di se stesso, e si comincia col fargli pagare questa debolezza ad un prezzo ovviamente molto più caro rispetto a quello del biglietto. Senza nessuna garanzia, perché l'onore di essere filmato non equivale alla sicurezza di apparire nel film fatto e finito. Nel fatidico momento del montaggio, perché anche la finzione cinematografica è una lotteria come la vita, il regista potrebbe ricorrere alle forbici e il tanto sudato e pagato posto sotto i riflettori, che è una versione più intenerita e individualizzata del posto al sole, a svanire. I due episodi, Lega Nord che cerca candidati e produzione cinematografica che vende ruoli in un film, rappresentano bene un unico tracollo. Il regista di un film racconta una storia che per lo più è animata da persone. Persone che hanno un volto, un modo di fare, un linguaggio, direi anche già una storia alle spalle. Gli attori diventano queste persone in base a calcoli precisi di chi racconta. Il tale è adatto a sostenere questa parte, il tal'altro no. Difficilmente Tina Pica avrebbe potuto interpretare le parti affidate oggi a Kim Basinger. Difficilmente Alvaro Vitali avrebbe potuto accompagnare Anita Ekberg al posto di Mastroianni in giro nella Roma notturna della Dolce Vita di Fellini. Certi effetti comici sono ottenuti proprio derogando da queste norme fisionomiche implicite, trascurando di principio l'elemento di umanità comune che sottostà a quelle fisionomie. Trascurando cioè il fatto ovvio che Tina Pica, per citare questo proto-esempio intramontabile, in privato avrebbe potuto uguagliare e superare Kim Basinger in mimesi di prestazioni sessuali, e che Anita Ekberg avrebbe potuto benissimo innamorarsi perdutamente di Alvaro Vitali e vivere con lui attualmente felice e contenta. La scelta di un attore, insomma, nei confronti di qualsiasi narrazione non è mai ideologicamente neutra. Non sceglierli dunque e accettarne l'imposizione da una qualsiasi forma di mercato significa dequalificare la narrazione, minarne alla base la coerenza e la compattezza ideologica, inserendovi più fattori di casualità contraddittori rispetto al patto implicito che si stipula fra il narratore e il suo destinatario. La stessa svalorizzazione investe alla fonte il partito politico della Lega Nord e il suo eventuale candidato. Un partito nasce allorché più persone con le medesime opinioni sentono l'esigenza di mettersi assieme. Lo scopo associativo è quello di acquisire maggior forza persuasiva e far sì che le opinioni si traducano in coerente progettualità politica. Chi voterà questo partito lo farà sulla base di questi presupposti. Scindere improvvisamente la coppia formata dall'idea e dalla persona che associandosi la rappresenta e ammettere che la medesima idea può essere rappresentata da chiunque, perfino da qualcuno che può rispondere ad un'inserzione sul giornale, significa svilire l'idea, ridurre il partito a un'agenzia di collocamento pronta a qualsiasi collocamento purché rimanga agenzia, e trasgredire il patto con gli eventuali elettori che, votando per il partito, credono di votare per persone che ne hanno acquisito da tempo il diritto di rappresentanza. Il tragico comunque non sta nel fatto che a tanto sia giunta la Lega Nord, che non ha mai avuto la possibilità di liquidare la propria compattezza ideologica perché mai ha neppure tentato di costruirsela. Il tragico sta nel fatto che, senza fare le inserzioni sui giornali, ma gironzolando di salotto in salotto, a tanto siano arrivati già da tempo tutti gli altri partiti. Nel 1962 in Italia si pubblicò uno strano libro che era la traduzione di un romanzo del francese Marc Saporta. Si intitolava Composizione numero 1, la ricorda anche l'Oliva, e il libro era strano, strano perché al di là delle apparenze in realtà era una scatola. Dentro le pagine erano tutte staccate l'una dall'altra e non numerate. Il lettore veniva invitato a farsi la storia da sé, rimescolandole come un mazzo di carte. Lo scrittore aveva scritto le pagine in modo che risultasse indifferente l'ordine in cui sarebbero state lette. Era più un gesto di stampo surrealistico, tuttavia, che un vero e proprio invito alla lettura. Un gesto, diciamo, dissacratorio nei confronti della concezione stessa del romanzo. Nessuno si diverte a leggere una storia che per principio non va da nessuna parte, e infatti credo che nessuno l'abbia mai letto davvero. La casualità cui invece si affida il regista McTiernan è una casualità ben temperata, a responsabilità limitata. Frutto di un mercatino secondario è il corpo umano che darà vita al personaggio, ma il personaggio già c'è. Caso e denaro, allora, contribuiranno soltanto a una delle facce di quella stessa medaglia formata dal personaggio e dall'interprete. Il narratore ammette allora che non tutto quello che vuole narrare è sotto il suo dominio, che subisce regole strane alla logica della narrazione stessa. È un po' come se al mercato ci venisse offerta frutta dichiaratamente guasta, ma invece di costare di meno, costasse di più. Chi la compra? Chi la compra? Eppure ci potremmo giurare, ci sarà chi la compra, come ci sarà chi li vota.